Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, dico subito una cosa: di solito il venerdì, da sempre, da oltre un anno, abbiamo l'appuntamento con la poco invidiabile classifica di Focus Economia, cioè gli sprechi della pubblica amministrazione. Tornerà venerdì prossimo. Oggi oggettivamente ci sono troppi temi, non riuscivamo a mantenere la promessa di raccontare la cronaca della giornata economico-finanziaria se avessimo dovuto anche dare lo spazio che abbiamo fissato il venerdì sugli sprechi. Quindi gli sprechi tornano con le loro anomalie, delle volte assurde, delle volte paradossali, ma torneranno venerdì prossimo. Darò invece una rettifica a seguito di una diffida. Ci sono alcune cose in cui ha ragione, altre invece che non vengono smentite. L'oggetto è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ci ha scritto, ci ha fatto scrivere, ci ha diffidato, chiesto di correggere alcune informazioni. Dicevo, perché la cronaca è così oggi pesante e intensa da non rendere possibile la rubrica? Perché abbiamo l'incontro, il commento soprattutto dopo l'incontro tra Angela Merkel e Matteo Renzi. Si è parlato anche e molto di economia, non solo. Il tema dei migranti era un tema ovviamente fondamentale. C'è tutta la reazione di borsa oggi in generale, un rimbalzo. Nello specifico però, dopo la conferma ieri, mercati chiusi, anzi oserei dire a programma finito alle 18.30, della via libera tra la fusione tra la Popolare di Milano e il Banco Popolare, quindi tra Verona e Novara, e Bergamo, come si dice una volta, e Milano. C'è chi l'ha chiamata la fusione della A4, ricordando l'autostrada. Faccio notare che la A4 passa anche per Brescia e lì c'è UbiBanca, che invece né fuori viene vista papabile per il Monte dei Paschi. Contento, se ho ben visto, l'amministratore delegato Viola, forse qualche perplessità in più ce l'ha UbiBanca. Ma andiamo sulle notizie più confermate. Popolare di Milano più 6,65%, Banco Popolare più 8,91%. Ne parleremo. Non è un mistero che si vadano a unire due banche popolari molto grosse, molto forti. Si creerà il terzo polo bancario del paese. Da quello che ci risulta, il Banco Popolare su 14 miliardi di crediti ne ha 11 miliardi, diciamo, in sofferenza. C'è anche tutto il tema di chi resterà al vertice della banca. Da quello che si è capito, ci sarà tutto un cambio, diciamo così, un pesi e contrappesi all'interno dei vertici. Vi arriveremo. E questo è l'altro fronte di carattere economico e finanziario. Poi oggi, una coincidenza importante, si apre e prosegue anche domani a Torino quest'anno il 22esimo congresso annuale degli operatori dei mercati finanziari, organizzato come ogni anno da Assium Forex. Domani la parte che compete da Sole 24 Ore Radio Core e l'intervento del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Chiaramente molto delicato e importante questo appuntamento, proprio perché casca e capita in un momento di fortissima tensione sul mondo bancario e in generale sulla borsa. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp. Poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve, partiamo però dalla borsa. Allora, dicevo, al di là di Banco Popolare e Popolare di Milano, molto bene Unipol più 4,70, Popolare Emilia Romagna più 4,40, Intesa San Paolo più 3,60, in recupero tutti questi titoli dopo i cali degli ultimi giorni. L'indice complessivamente guadagna il 2%, meglio di Parigi più 1,60, di Francoforte più 1,30, Devo dire anche di Londra, che guadagna l'1,70%, l'euro a quota 1,08 vicino a 1,07, perché 1,08 è 14. Tra i titoli non bancari segnalo Campari più 4,40 e anche Prismian più 4%, Uxnet a Porté più 3,60, Telecom Italia più 3,40 come Luxottica, Azimut più 3,20, Atlantia più 3, Salvatore Ferragamo più 3%, Enel Green Power più 2,80. Chi perde? Todds meno 0,28 e poi di nuovo Fiat meno 1,50 di Steam Microelectronics meno 1,50%. L'economia internazionale nelle nostre notizie in breve. Allora, oggi la banca centrale giapponese ha adottato i tassi di interesse negativi, cioè ormai depositare i soldi in Giappone ha un interesse negativo, cioè perdi sul valore nominale e anche quindi sul valore reale. I rendimenti comunque di quelli che sono i BTP giapponesi a 10 anni, per chi fosse curioso si chiamano JGB, dicevo, sono scesi allo 0,090%, vuol dire che chi presta soldi al Giappone per i prossimi 10 anni, il Giappone tra l'altro ha un debito che in buona parte è in mano ai suoi cittadini, comunque i giapponesi che finanziano il loro debito otterranno lo 0,09% all'anno per 10 anni, cioè il nulla. Il dato non buono invece arriva dall'economia statunitense, dove è rallentato l'andamento del quarto trimestre, più 0,7% contro un terzo trimestre più 2%. Complessivamente comunque il dato sul 2015 sarà di una crescita del 2,4%. Perché rallenta? Beh, insomma, lo dice in maniera molto chiara la Casa Bianca, rallenta la crescita economica perché sta rallentando la crescita a livello mondiale, quindi anche tutto l'export americano. L'export americano segna il passo. Tra l'altro, una cosa interessante è che la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha detto che se il rallentamento dell'economia dovesse essere confermato, a quel punto probabilmente i tassi di interesse resteranno fermi per tutto il 2016. C'è lo spettro di una recessione nell'economia globale ed ecco perché voglio essere molto molto cauta la banca centrale americana. E Ben Bernanke, l'ex numero uno della Federal Reserve, ha detto: attenzione, ritengo che anche la banca centrale americana, la Federal Reserve, dovrebbe fare come il Giappone, cioè introdurre come arma la possibilità dei tassi di interesse negativi come strumenti anticrisi. Andiamo all'Europa, l'inflazione nell'area euro è leggermente salita a gennaio allo 0,4%, crescono leggermente i prezzi dei servizi e degli alimentari, siamo ancora molto distanti dal 2% ritenuto ottimale dalla BCE. Invece in Francia, come previsto, la situazione si complica, nel senso che la Francia ha un deficit assolutamente fuori da ogni parametro di Maastricht, ma anche un'economia che sta rallentando, il PIL è salito solo dello 0,2% nel quarto trimestre dell'anno. Va detta una cosa però, che molti osservatori collegano, a mio avviso correttamente, anche questa cara del PIL anche all'effetto degli attentati terroristici a Parigi, che hanno ridotto notevolmente il turismo e i consumi interni. Chi invece va benissimo è la Spagna. La Spagna ha fatto più 0,8% nel quarto trimestre dell'anno scorso. La crescita del PIL spagnolo a questo punto si attesta al 3,5%, il 3,2% nell'intero 2015, un dato eccezionale se pensiamo appunto a quella che è la crescita tedesca, francese, ma è anche quella italiana che non andrà oltre lo 0,8%. Allora, adesso arriviamo agli scenari di borsa, agli scenari sui titoli bancari. Qualche anticipazione sull'incontro Merkel Renzi? Beh, insomma, anche la Merkel ha detto le riforme di Renzi sono ambiziose, bene il Jobs Act, ci unisce lo spirito europeo. Sulla flessibilità decide la Commissione Europea, non mi mischio in queste cose. No, adesso non esageriamo, troppa modestia. La Germania da sempre si mischia nella flessibilità, c'è Weidmann che parla, c'è Schäuble che parla, non si è così modestia. Frau Merkel, sappiamo che la Germania si mischia sulla flessibilità e il rigore da applicare in Europa, e come se non si mischia, è immischiatissima. Invece altra cosa è il tema di che la Germania, lo dico a chi mi sta scrivendo, sia il paese più forte dell'area euro, non c'è dubbio. Altra cosa, un conto è la forza, un conto è la leadership. Allora, che la Germania sia la più forte è indubbio, che abbia diritto di parlare e con forza, essendo un paese economicamente più forte, è indubbio. Una cosa però è essere forti, una cosa è essere autorevoli, una cosa è essere forti, una cosa è essere leader. Ecco, se mi venite a dire che la Germania ha saputo in questi anni prendere in mano la leadership di un'Europa in difficoltà tra Italia, Spagna, Grecia, Francia e guidare l'Europa, beh, insomma, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, le frontiere di Schengen che salta, la Svezia e altri paesi che, al di là della Svezia, che fanno quello che vogliono sui migranti, le frontiere che vengono spinte verso la parte mediterranea, il patto di stabilità interna che serve solo, diciamo, a punire i paesi ma mai per la crescita, l'unione bancaria che viene fatta dopo che ogni paese chi ha potuto, chi ha voluto, si è risolto i suoi problemi. Insomma, guardate come sta messa l'Europa e mi dite se è stata gestita come leadership. Se sei forte hai anche l'obbligo, il dovere morale di essere leader, se no che sei forte a fare. Sì, tra l'altro la copertina di Time l'ha beccata sui rifugiati e poi ha fatto marcia indietro. Va bene, andiamo avanti. Comunque, le parole del Presidente del Consiglio Matteo Renzi dopo l'incontro con Angela Merkel, per la prima volta qui con risultati non promesse, non siamo d'accordo su tutto ma siamo uniti, combattere la disoccupazione, combattere il populismo, l'Italia e Germania sono d'accordo, l'Unione Europea deve cambiare passo, sulla flessibilità chiediamo che le regole siano applicate, non vogliamo nuove regole. Spero che Juncker non abbia cambiato idea sulla flessibilità, è stata la condizione per la sua elezione. Siamo i primi noi a dire che il debito deve scendere, la ripresa in Italia c'è e si tocca con mano, e va bene finanziare la Turchia, il famoso veto che l'Italia ha posto ai 3 miliardi da dare alla Turchia per i costi che ha nella gestione dei flussi di migranti, ma bisogna, ha detto Renzi, capire, ragionare sul modo di concepire questo contributo, e poi l'Italia è pronta a fare la sua parte. La quarta volta che io ho il piacere di visitare questo bellissimo palazzo, la terza da primo ministro, sempre su invito di Angela, e devo dire che sono molto felice del fatto che grazie agli sforzi ovviamente del popolo italiano, del governo italiano, ma anche grazie alla buona collaborazione europea e con gli amici tedeschi, per la prima volta forse sono qui non con un elenco di impegni, di promesse, ma con un elenco di riforme, di risultati, che per noi è molto importante. L'Italia non è più, come è accaduto in una fase recente del nostro passato, il problema dell'Europa. L'Italia ha voglia di fare la propria parte come è doveroso che sia e come la storia del nostro Paese ci impone di fare. Mi scrive un ascoltatore che c'è una frase: da grandi poteri derivano grandi responsabilità, a proposito del fatto che la Germania sia il paese più forte e potente, ma non ha dimostrato capacità di leadership, che vuol dire pensare a tutti, non pensare solo a te stesso, e assumersi e venire visti come ruolo guida, quindi avere autorevolezza, non solo autorità e forza, ma autorevolezza. E appunto, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, la frase è di un famoso filosofo, come lui ricorda, ossia Spider-Man. È vero. Allora, per quello che riguarda invece il prezzo del petrolio, mi chiedete giustamente, oggi si chiude una settimana in cui il prezzo del petrolio un po' è risalito, $33 al barile. Che cosa è successo? Mosca ha fatto sapere di essere pronta a tagliare la produzione e poi ha detto che dovrebbe partecipare alla riunione dell'OPEC di febbraio. Sarebbe la prima volta che insomma si inizia a tagliare la produzione del petrolio. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore. Devo rispondere a un ascoltatore prima che dice: la Spagna cresce così perché ha portato a termine quasi tutte le riforme che la Germania le ha chiesto di fare. Allora, ha ragione, nel senso che la Spagna ha fatto le riforme, ha usato anche ISM per rimettere a posto le sue banche e quant'altro. Le faccio notare, come lapsus freudiano, che le riforme, se fossimo in un'Europa veramente europea, non le chiede la Germania, le chiede Bruxelles. Però siamo così abituati ormai che Bruxelles sia un sinonimo di Berlino e viceversa, che lei scrive le riforme che la Germania ha chiesto. La Germania non può chiedere formalmente niente, come io non posso, noi non possiamo chiedere alla Francia, la Francia non può chiedere alla Spagna e l'Austria non può chiedere. Il problema è che tutti ormai hanno capito che è la Germania che muove Bruxelles, e allora assumiti la responsabilità. Non puoi però pensare al tuo elettorato, ai bavaresi, quando ti fa comodo, alle banche del territorio compromesse con i poteri locali, e poi però dire che e volere guidare l'Europa. Se guidi l'Europa devi pensare a tutti, se no pensi solo ai casi tuoi, ma rinunci a battere i pugni sul tavolo e a esercitare la tua forza. Però i soldi li chiedete ai tedeschi. Se lei mi spiega quali soldi abbiamo chiesto ai tedeschi, le sarei grato. E un altro mi scrive: ricomincia la solita melassa populista antitedesca. Guardi, melassa populista no, sugli errori compiuti dalla Germania sì, qualcuno mi deve spiegare di chi è la responsabilità se l'Europa sta andando in frantumi. Diciamo che è del Portogallo, che è della Grecia, vabbè, è noto che negli ultimi 7 anni chi ha dettato la regola e la guida in Europa è stato il Portogallo, la Grecia e il Lussemburgo. Va bene così. I 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore sul petrolio, firma oggi del vice direttore Alberto Orioli. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Il crollo della quotazione del dollaro porta, come è inevitabile, grosse novità nella geopolitica. La Russia, da sempre esterna al cartello dei paesi produttori dell'OPEC, perché gelosissima della propria indipendenza e dei propri guadagni, ha annunciato di voler operare in coordinamento soprattutto con i sauditi. L'Arabia Saudita è da sempre il paese leader dell'OPEC e questa novità potrebbe portare significativi vantaggi per le casse russe. Oggi la Russia perde 10 miliardi di dollari al giorno per ogni dollaro in meno della quotazione del greggio, ha un bilancio pubblico garantito al 50% dalle entrate di petrolio e gas ed è tarato su quotazioni superiori ai $50, mentre oggi il Brent oscilla intorno ai 33 dopo aver fatto un balzo ieri intorno ai $36 al barile. Finora Mosca ha tagliato tutto il tagliabile nelle pieghe dei bilanci di ministeri ed enti pubblici, ma Putin adesso non ha intenzione di intaccare anche i fondi destinati alle spese del welfare o, peggio ancora, alla difesa, e così ha deciso questo cambio epocale di strategia verso i paesi OPEC. Un cambio che potrebbe portare anche a un taglio del 5% delle produzioni, o almeno questo è quello che spera Mosca, taglio che finora però i paesi arabi non hanno mai voluto accettare perché preoccupati soprattutto di contrastare il petrolio iraniano, che presto inonderà le pipeline dell'Occidente dopo la fine dell'embargo. La strategia dell'Arabia Saudita è volta anche a rendere antieconomico il programma di investimenti americano sullo shale gas, la nuova frontiera dell'estrazione del greggio dalle sabbie bituminose, che è possibile solo e soltanto con un greggio intorno ai $60-80 al barile. Non è un caso che già 42 società legate all'estrazione di questo tipo negli Stati Uniti hanno già dichiarato bancarotta e che 48 ore fa 3 colossi americani come Continental Resources, Hess Corp e Noble Energy hanno annunciato nuovi pesantissimi tagli degli investimenti che porteranno questa volta sì anche a un sensibile calo di produzione. Insomma, è una guerra anche se combattuta sui listini. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Thank you. allora poi risponderò, va bene. Alcune contestazioni. No, devo rispondere invece al Consiglio Nazionale delle Ricerche che ci ha mandato una lettera di diffida dopo una puntata della nostra classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione relativamente a un articolo apparso, vi lo ricordo sempre, noi non inventiamo nulla, prendiamo gli articoli che citano casi più o meno grandi, più o meno paradossali, più o meno fastidiosi di sprechi della pubblica amministrazione. E nel caso specifico citavamo la gestione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per quello che riguardava i tempi determinati e una protesta, una dedicazione sindacale, ossia le ricercatrici di Pisa che insieme all'Unione Sindacale di Base avevano manifestato davanti alla sede di Piazzale Aldo Moro nella speranza di un ravvedimento nei confronti delle ricercatrici dell'Istituto di Fisiologia Clinica. Il dipartimento è finito nel mirino della procura per un buco tra i 4 e i 10 milioni di euro per una mala gestione che si è protratta per anni. Facciamo notare che il posto adesso lo rischiano le ricercatrici che non hanno nessuna responsabilità, Sonia e le altre, e alcune dichiarazioni di Cinzia Dalla Porta dell'Unione Sindacale di Base. E poi il punto che ha fatto arrabbiare, e cioè il 31 dicembre le ricercatrici scoprono che non saranno rinnovate a causa di mancate risorse, e invece il Consiglio Nazionale delle Ricerche a Natale, il 21 dicembre, ha sottoscritto con i sindacati un assegno di indennità da 1.200.000 euro per i dirigenti a copertura delle loro responsabilità, una cifra variabile dai 4.000 ai 10.000 euro. Allora, mi è arrivata una lunghissima lettera del direttore generale Paolo Annunziato, una diffida. Andiamo per punti, non è che posso annoiare il mondo, però ha ragione, chiedo scusi, l'ho chiamato Centro Nazionale delle Ricerche, si chiama Consiglio Nazionale delle Ricerche, ho sbagliato. Prendiamo anche atto, prendo atto, che da quando lei è direttore generale c'è stata una riorganizzazione del CNR, gli uffici dei dirigenti sono stati ridotti di ben 18 posizioni, passando da 30 alle attuali 12, riducendo quindi di un terzo gli incarichi dirigenziali, e che a gestire i 12 uffici sono chiamati 8 dirigenti che vengono pagati in media 100.000 euro lordi l'anno. È tutto corretto, prendiamo anche atto che lei e il presidente Nicolais hanno sempre lottato per far aumentare le risorse disponibili per l'assunzione di ricercatori tecnologici, e che il presidente Nicolais ha presentato alla Commissione Cultura della Camera un'audizione sulle attività svolte al CNR. C'è un punto però, lei conferma, direttore, che con l'accordo, che c'è stato un accordo con i sindacati, l'accordo integrativo tra amministrazione e organizzazioni sindacali, approvato con delibera del CDA dell'ente, e per cui viene dato un'indennità di ammontare fisso complessivo non superiore a 160.000 euro, variabile tra i 4.000 e 8.000 euro lordi, insomma, e con un addizionale fino a 6.000 euro lordi in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati. Lei dice questa spesa non grava sul CNR, non è grava totalmente sulle risorse provenienti da commesse esterne. Ma mi scusi, ma il discorso non cambia, cioè le ricercatrici scoprono il 31 dicembre che non hanno più il posto, e lei conferma che con un accordo sindacale totalmente legittimo si è deciso di dare una, noi diciamo tra i 4 e i 10 mila euro, lei dice 6 mila euro, vabbè, fa la media, per raggiungimento degli obiettivi ai dirigenti. L'anomalia è tutta qua, cioè è strano che non ci siano i soldi per confermare le ricercatrici, ma si trovino, seppur con risorse esterne, 1 milione 200 mila euro. Comunque, ripeto, mi sembra che ci siamo chiariti, perché il Consiglio Nazionale delle Ricerche non è il Centro Nazionale delle Ricerche. Abbiamo dato atto della riduzione dei dirigenti che lei sta facendo, dello sforzo che state facendo, e speriamo che andiate avanti, che vi riusciate, così come però confermiamo, lei ce lo conferma, che nel momento in cui non si potevano rinnovare i contratti si è dato un premio indennità per i dirigenti. Non è un reato, però questo c'è, almeno quello non abbiamo sbagliato, no, direttore Paolo Annunziato? Meteo, pubblicità, e poi iniziamo a sentire i mercati dei capitali, gli operatori dei mercati dei capitali, la fusione Popolare di Milano con Banco Popolare, cosa capiterà a questo punto a UBI e Monte dei Paschi e Popolare Emilia Romagna, che sono le altre spose o gli altri mariti. I menage a trois non sembrano di gran interesse in questo momento, perlomeno. Meteo. Focus Economia. Oh. Allora, mi faccia capire Barisoni, i bonus ai dirigenti CNR non vanno bene mentre quelle delle banche in fallimento vanno bene. Allora, torniamo sul tema. Come giudizio personale, l'abbiamo detto migliaia di volte, c'è stata una esagerazione, un delirio nei bonus ai dirigenti della finanza, ai manager della finanza dagli Stati Uniti, poi anche in Europa è arrivata questa cosa, un delirio. Ed è uno dei motivi per cui è scoppiata anche la crisi del 2008, perché con bonus del genere il moral hazard, cioè la tua voglia di prendere dei rischi altissimi, aumenta. E da questo punto di vista spesso abbiamo ricordato come negli anni 70 il rapporto tra dipendente e top manager fosse negli Stati Uniti nelle prime 100 società di 1 a 70, e nel 2008 invece era arrivato a 1 a 240. Non c'è uomo al mondo che valga 240 volte un suo dipendente. Detto questo, però, lì giudicano gli azionisti, se vogliamo mantenere un po' di forma, mentre quando i soldi sono pubblici, giudico anch'io che sono un contribuente e questi soldi sono anche miei, ok? Allora, ascoltatore, dico no, non si è perso la classifica, oggi l'abbiamo fatta saltare perché abbiamo troppi temi. Allora iniziamo, la borsa ha chiuso bene, ma soprattutto è infiammata da Banco Popolare più 9,20 e Pop Milano più 7,40. Le nozze fanno bene sia il marito sia la moglie. Un tema di unioni civili. E a questo punto è indifferente chi sia il marito e chi sia la moglie, possono essere anche due mariti o due mogli, non mi interessa. È interessante sapere il rapporto di forza, quello sì, tra le due banche. Però spostiamoci prima a Torino, dove c'è la nostra Filomena Greco, che sta seguendo la prima giornata dei lavori del 22esimo congresso annuale degli operatori dei mercati finanziari, il Forex, Assium Forex. Buonasera Filomena. Sì, buonasera Sebastiano, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Senti, sono depressi, allegri, preoccupati, cosa vogliono? No, allegri no, ecco, allegri questo no. Sicuramente. Perché allegri è solo uno, è particolarmente allegro. Dimmi. Quindi allegria c'è in realtà poca, tu hai fatto un elenco prima dei temi critici in chiave europea, effettivamente qui l'Europa è sentita parecchio in questo momento in una chiave molto critica. Mm-hmm. Ecco, l'appuntamento è arrivato in un momento effettivamente infuocato, i rapporti tra il sistema delle banche e le borse, no? Abbiamo letto tutti i dati certo. Di perdite, diciamo, questi 25 miliardi di capitalizzazione persi in pochi giorni e fanno tremare realmente i polsi all'intero sistema. Però i temi che hanno tenuto un po' che aleggiano su questa piazza, domani si entra nel vivo perché ci sarà il discorso di Ignazio Visco, presidente della Banca d'Italia, governatore della Banca d'Italia, quindi domani ci sarà la giornata, diciamo, clou di questi due giorni. Però oggi i temi che aleggiano fra gli operatori finanziari, gli esponenti del mondo del credito, sono essenzialmente due. Il primo è la convinzione, che è quasi un mantra fra tutte le persone che ho sentito, che la reazione dei mercati sia emotiva, sia troppo emotiva, che il sistema italiano sì. Sia solido. Il secondo tema, che è stato anche al centro di una tavola rotonda, insomma, che mm-hmm. Si è da poco conclusa, è proprio il rapporto tra i sistemi bancari nazionali e questo processo di unificazione complesso e importante che è in corso in Europa. Quindi il tema dei rapporti con l'Europa e l'azione che l'Europa sta esercitando sul mondo del credito, un'azione che vista da qui, anche alla luce dei fatti di questi giorni, è un'azione carente. Senti, tanto di semplicità quanto di chiarezza. Senti Filomena, dimmi una cosa però molto semplicemente, ma la sensazione che tu hai ricevuto è di operatori preoccupati per quello che sta capitando alle banche italiane, oppure ritengono che sia una tempesta, una tensione, ma poi tutto si risolverà? Non so se è un atteggiamento, ma il tema è freddezza, calma, tutto passerà, questi valori in qualche maniera si recupereranno e il problema è una carenza, diciamo, di azione a livello governativo. Sì, esatto, un'azione che non è né troppo chiara né troppo efficace. Parliamo dell'Europa, ma il riferimento è anche naturalmente all'accordo. Ecco, no? Tu su questo hai sentito anche il presidente di Assium Forex, sì, Attanà. Sì, Giuseppe Attanà, che ha commentato entrambi questi aspetti. Possiamo sentire il contributo. È un altro dei punti veramente incredibili dove evidentemente la comunicazione corretta di quella che è la situazione reale e per qualche motivo non funziona. Ora, è vero che questo accordo sulle sofferenze non è nulla di trascendentale, è peraltro sicuramente positivo e sicuramente aiuterà soprattutto le banche minori, quelle con maggior problemi patrimoniali, a superare e a liberare del capitale per il finanziamento all'economia reale, quindi per aumentare anche alla fin fine la propria redditività. L'unico vero problema del sistema bancario internazionale è quello che deriva da una situazione di tassi molto bassi e quindi che determina una scarsa redditività per il sistema. Era un problema straconosciuto da parecchi mesi quantomeno, perché Banca Centrale Europea ha ben detto diversi mesi fa che la situazione di tassi bassi andrà avanti per un lungo periodo, quindi non è una sorpresa per il mercato. Il problema della minor redditività è più che compensato da un problema di solidità patrimoniale estrema da parte dell'industria bancaria, perché grazie tra virgolette alle regolamentazioni ci si trova in una situazione patrimoniale molto solida, oltretutto con una supervisione bancaria molto ma molto attenta, quindi è uno dei sistemi attualmente più sicuri al mondo. Non si vede perché venga, diciamo, trattato in questa maniera dai mercati. Peraltro sappiamo che i mercati sono caratterizzati da scarsa liquidità e quindi questi movimenti molto ampi sono da prendere con le pinze per quanto riguarda una valutazione del rischio. Cioè, è come si dice con un gergo molto finanziario, la qualunque, dai. Cioè, sì, ma io, vabbè, dai, adesso è meglio che stia zitto oggi, sì, che è venerdì. No, perché quando sento dei commenti così, scusami un attimo Filomena, quando sento dei commenti così, sì, certo, bisogna prendere la comunicazione. Ragazzi, allora parliamoci chiaro, care banche italiane e ABI e anche presidente del Forex Satana, c'è stato un problema, sì, che per 5 anni le banche italiane hanno raccontato a tutti, e la politica ha voluto credere a questa cosa perché era preoccupatissima da altri elementi di tenuta del paese, che le banche italiane erano diverse e che non c'era un problema di derivati e di strumenti tossici. Vera la seconda parte, se vogliamo vera anche la prima, ma come si poteva immaginare che un paese che perde il 20% di produzione industriale non abbia poi un enorme problema delle sofferenze bancarie, lo sanno solo i banchieri geniali. Adesso ci troviamo con 300 miliardi, di cui 200 miliardi di sofferenze lorde, 87 da svalutare, è quello che è successo. Sarà anche un problema di comunicazione, perché noi spieghiamo male, la gente capisce male, ma forse se l'ABI, Patuelli, se l'ABI si fosse mossa prima a dire guardate che il sistema ha un problema, se i singoli amministratori si fossero messi prima, forse anche noi avremmo capito, meglio lo dico anche ad Attanà, che è sorpreso da come mai adesso non capiamo perché l'accordo di Bruxelles, che andrà a contare i peli, diciamo, delle banche sulle sofferenze, sia un accordo a nostro avviso al ribasso. Ragazzi, avete raccontato per anni che le banche italiane erano sane perché non avevano gli strumenti tossici, e questo ha permesso ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati, ai consigli di amministrazione e a tutta la compagnia cantante di mantenere il loro posto. Adesso mi sono girato le scatole, mando il traffico e poi mi fai sentire i miei cossi. Focus Economia. Allora, Filomena Greco, tu hai chiesto anche un giudizio su situazione, tensioni sulle banche e anche reazione sull'accordo, diciamo, raggiunto a Bruxelles, anche al direttore generale di Assonime, no? Sì, l'Associazione delle Società Italiane per Azioni. Aggiungo a quello che dicevi tu, sì, un cappello brevissimo, poi sentiamo subito il contributo. C'è anche la preoccupazione, questo è un tema forte, che l'azione dell'Europa non finisca per sacrificare la crescita economica, le esigenze di crescita economica sull'altare della stabilità e il discorso del rapporto fra il sistema bancario, certo, e il sistema produttivo, naturalmente. Ma sentiamo Mikos. Siamo tutti sotto stress, sono sotto stress le istituzioni, sono sotto stress le nostre società con queste ondate di migranti, sono sotto stress le istituzioni comuni che lavorano, propongono, hanno avuto anche coraggio, ma non riescono a costruire sufficiente consenso. Quindi la notizia del giorno aspettiamo che venga da Berlino, perché possiamo anche pensare che fosse ragionevole e giusto una fase molto assertiva e rivendicativa. Però, diciamo, bisogna che troviamo il modo di uscirne. La Germania è isolata. La Germania e l'Italia hanno interessi comuni. Sarebbe molto interessante se Renzi potesse offrire la collaborazione che la Germania chiede per risolvere i problemi dell'immigrazione e magari aprire qualche spazio non per ancora flessibilità del nostro bilancio pubblico, che non fa bene ma fa male all'economia, ma per una politica di crescita comune dell'Europa. Quindi il quadro europeo, la soluzione secondo lei si troverà in Europa per superare queste incertezze? Niente, o in Europa o niente. Ciascuno di noi da solo è un fuscello in marosi molto intensi, quindi o in Europa o niente. Ultima cosa, 25 miliardi di capitalizzazioni andati in fumo, spaventano dal vostro punto di vista? Diciamo, certamente non mettono allegria. Io continuo a pensare è un mercato molto fragile, dominato da fattori psicologici. Secondo me questi movimenti non riflettono la condizione oggi del sistema bancario italiano. Ci fanno però riflettere sul fatto che forse potremmo essere un pochino più decisi e un pochino più chiari su come intendiamo affrontare certi problemi. Il fatto che non lo siamo destabilizza i mercati. Allora, a questo appunto Stefano Micossi, grazie anche alla nostra Filomena Greco, che domani seguirà la seconda giornata dei lavori, l'intervento del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. L'oggetto, me lo chiedete molte volte, di questo accordo sulle sofferenze bancarie, a nostro avviso un minimo sindacale che l'Italia ha ottenuto a Bruxelles, però è importante averlo ottenuto. E qual è? È aiutare le banche? No, l'oggetto vero in un paese serio non è aiutare le banche, perché le sofferenze le banche le hanno avute in parte perché è crollata l'economia, in parte per affidi non sempre corretti. Faccio notare che ci sono 22 miliardi di sofferenze bancarie che fanno capo a 557 persone. Ora, io non so chi di voi riesca ad andare in banca e ottenere un credito del genere in quel modo. Però detto questo, l'obiettivo qual è? È liberare le banche da questa zavorra che obbliga a mettere patrimonio in cascina, per fare in modo che non si verifichi più un classico episodio, e me l'avete chiesto, ve lo mando, Benigni. Lei è venuto qui, non ha soldi investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente, e vuole 100 milioni. E pretende che noi glieli diamo? Detone! Lei non mi vuole dare 100 milioni! Ma lei va a contare il vostro nome, dottor Dio d'aiuto! Lei si contraddice! No, non ho niente! Certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni! Perché se avessi un miliardo me li darebbe 100 milioni? Certo! Certo! Ah sì, eh? Certo! Ma se avessi un miliardo, glieli darei io a lei 100 milioni! 200! Tenga, 300 milioni! Qui! Tenga, non li voglio neanche, me ne resta 700. Grazie tante. Non li voglio, li metto in tasca. Non li voglio, li metto in tasca. Se c'ho un miliardo mi dà 100 milioni. Allora, se io ho bisogno di una melanzana, devo andare dall'ortolano, devo avere un miliardo di melanzane a casa? Non me l'ha mai detto l'ortolano, ce l'ha lei un miliardo di melanzane? Mai! Né di pesche, di quello che c'ho bisogno. Direttore! Ma dove siamo arrivati? Avessimo in sofferenza le melanzane sarebbe diverso. Marco Ferrando, buonasera, poi ti prendiamo dopo il GR24. Marco, buonasera. Buonasera 24. A voi. Allora, si sposano Banco Popolare e Popolare di Milano? Ma così sembra, la chiarezza che invocava Micossi prima da qualche parte sembra arrivare, questo è un fronte. Ma adesso, in tema di unioni civili non si può più dire chi fa l'uomo e chi fa la donna. Diciamo così, chi è più forte dei due? In questo caso sicuramente la Popolare di Milano lo dice perché è più piccola ma è più robusta. Ma è vero che su 14 miliardi di crediti Banco Popolare ne ha 11 in sofferenza? Cioè che no, c'è 14 su 11 francamente mi sembra non un po' torna. Tanto, leggevo quelli, gli ascoltatori scrivono, però insomma che abbia un problema di debolezza sulle sofferenze bancarie? Quello sì, noi proprio sul Sole oggi abbiamo pubblicato il rapporto sofferenze su crediti totali, è molto più alto sul banco che sul BPM, sì. E in questo momento sappiamo il mercato è attento. È molto attento. Allora ne parliamo dopo il GR24, 349-238-6666 sia per gli SMS che per WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Mi dispiace che si lamenta che oggi non c'è la classifica, uno aspetta la settimana e poi salta la classifica, la settimana prossima, venerdì prossimo torna, glielo giuro, su quello che ho di più caro, la Germania. E poi commentiamo anche questo Renzi che chiama sempre la Merkel Angela, insopportabile. Dopo. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Donne, tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al MUDEC di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Chi verrà non lo dimenticherà mai più. Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Il sogno di questa settimana è che si facciano queste nozze, queste unioni civili, queste, chiamatele come volete, tra le banche popolari. E i primi a partire, se ho ben capito, sono stati Banca Popolare e Popolare di Milano. Saviotti in parte ha confermato. Allora, Marco Ferrando, tu dicevi che nonostante sono a vedere gli sportelli attivi e due banche, sembra più grosso il Banco Popolare, però come diciamo solidità. La Popolare di Milano ha un livello più basso delle sofferenze. Sì, esattamente, che se vogliamo l'indicatore più rilevante in questo momento e anche in chiave prospettica, perché è chiaro che le sofferenze un domani, nonostante tutte le rassicurazioni degli ultimi giorni, non ultima quella di Draghi, ecco, un domani potrebbero essere cause di accantonamenti, perdite ed eventualmente aumenti di capitale. Sta di fatto che al mercato questa situazione piace, oggi sono stati tra i titoli più comprati sia BPM che il banco, e quindi evidentemente si crede che dai matrimoni possa nascere qualcosa di buono in termini di efficienza, in termini di sinergie, che se vogliamo sono un altro fronte molto caldo delle banche che sono tendenzialmente inefficienti. C'è un'intervista oggi di Fabrizio Viola in cui dice sostanzialmente a Repubblica: meglio così, meglio le nozze a due che le fusioni a due che a tre, perché meglio del trio con Ubi, perché l'ipotesi era anche che ci fosse una fusione tra Popolare, Banco Popolare, Popolare Milano e Ubi Banca. L'ultima domanda che ho per te però riguarda questo, cioè come in certi balli del folcloristici, tradizionali, in cui ce ne sono le donne da una parte, gli uomini dall'altra e ognuno sceglie il suo partner, i primi che partono sono quelli che hanno più possibilità di scelta. Ora non voglio dire qual è, diciamo, quella che pochi vogliono, diciamo, come sposa o come marito, o pochi vogliono come marito, però una volta che Banco Popolare e Popolare Milano vanno a nozze, restano fuori a casa mia Popolare Emilia Romagna, Ubi Banca e Monte dei Paschi come grosse. Poi ci sono anche il Credito Valterinese, la Popolare Sondrio, lo sappiamo. Prospettive? Ma sì, il tema di Ubi col Monte Paschi effettivamente è di attualità. Sappiamo che anche il governo non disdegnerebbe che si andasse in questa direzione. Insomma, non si è detto, ma di fatto è trapelato che questa è la posizione del governo. C'è stato l'incontro due giorni fa tra Padoan e gli amministratori delegati. E diciamo che Ubi comunque ha fatto intendere che da sola potrebbe avere qualche problema a fare questa operazione, perché il Monte, nonostante ieri è stato detto è tornato inutile l'anno scorso dopo 4 anni di rosso consecutivo, quindi l'inversione di tendenza c'è, però i 40 miliardi di sofferenze lorde e 24 nette comunque sono un bel macigno, e questo veicolo per le cartolarizzazioni non sembra appunto, come dire, risolvere il problema. Quindi Ubi è candidata naturale, anche perché la stanza è piccola, i pretendenti, come dicevi, sono pochi, però come dire, il colpo di fulmine forse non è ancora proprio scoccato. Poi c'erano voci anche della Popolare Emilia Romagna con la Pop Sondrio, c'è chi dice no, invece la Pop Sondrio dovrebbe fondersi con Creto Valtellinese. Insomma, ce ne sono ancora di matrimoni o di unioni per dire che la partita è chiusa, si è appena iniziato, però insomma, questa almeno sembra una partita avviata poi a conclusione. Sì. Faccio notare che oggi sono salite anche tutte le altre banche, al di là di Unipol più 5,50, ma la Popolare Emilia Romagna più 5,16, Intesa San Paolo più 4,14%, E ancora sul fronte bancario sono salite meno, Unicredit è rimasta un po' più al palo, più 0,60%, Banca Mediolanum più 1,80%. Passiamo quindi alla borsa, nel ringraziare Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Allora, Eleonora Micheli, Radio Cori Sole 24 Ore, buonasera. Eleonora? Buonasera. Eccoci. Al di là delle banche, di cui abbiamo ampiamente parlato, poi resteranno l'oggetto della borsa per i prossimi giorni, per le prossime settimane, andiamo su Saipem e Telecom. Sì, Saipem oggi ha recuperato lo 0,7%, ma soprattutto si sono infiammati i diritti, più 23,4%, peraltro ricordiamo che i diritti sono quelli che valgono di più, valgono 2,9 euro contro solo gli 0,57 euro delle azioni. Dopo gli scivoloni di inizio settimana, quando è partito l'aumento di capitale, pian piano le azioni risalgono la china, complice anche il progresso che sta registrando il petrolio. Il WTI in questo momento è scambiato in verità in lieve flessione, meno 0,12%, ma fino a qualche secondo fa era in rialzo, comunque sopra i $33 al barile. Per quanto riguarda invece Telecom, più 4,6%, occhi puntati sulla società, e soprattutto è scattato il conto alla rovescia per il piano industriale che sarà presentato a Londra il prossimo 16 febbraio. Ieri c'è stato un consiglio di amministrazione che ha analizzato a grandi linee il piano industriale. Secondo indiscrezioni emerse al termine appunto del CDA, pare che la compagnia sia disponibile a incrementare il livello degli investimenti in Italia che erano stati già annunciati l'anno scorso, e pari a 10 miliardi, vorrebbe infatti portarli a 12 miliardi anche in relazione alla crescente domanda di connettività in Italia. Quindi una notizia tutto sommato anche positiva, che è stata accolta quindi con un progresso quasi del 5%. Poi abbiamo visto altri titoli muoversi bene, Prysmian più 4,50%, per carità, Luxottica, tutto il lusso oggi bene, tranne Tozzo, oddio, anche Tozzo ha chiuso in positivo più 0,30, però meglio ha fatto sicuramente, diciamo, Campari più 4,80%, Luxottica più 4,20% e Ferragamo più 3,5%, Jux Net-a-Porter più 3,30%. Ricordo che la notizia più forte di oggi è la banca centrale giapponese che porterà i tassi in negativo. Bene ha chiuso anche Parigi più 2,20%, Francoforte più 1,60%, Londra più 2,50%, bene gli Stati Uniti più 1,60%, quindi c'è un'impostazione positiva di tutte le borse. Milano, non ho dato l'indice, più 2,60%. CNH. CNH quest'oggi ha dato i conti del 2015, conti un po' a luce e ombre, il titolo comunque è salito del 3,3%, diciamo che gli analisti hanno festeggiato e apprezzato soprattutto il fatto che la società ha notevolmente ridotto il debito a fine anno, si è portato a 1,6 miliardi quando invece solo a fine settembre era superiore ai 3 miliardi, e soprattutto quando gli analisti pensavano che si riducesse, ma insomma rimanesse ben al di sopra dei 2 miliardi di euro. euro. Poi di fatto l'azienda ha dato un po' indicazioni a luci e ombre anche sul 2016, per alcuni analisti sono state abbastanza deludenti sul fronte della marginalità, fatto sta che comunque i titoli sono saliti del 3,3%. Invece diciamo la cugina FCA ancora oggi ha perso lo 0,7%, ormai è da tre giorni che va giù dopo la pubblicazione dei conti 2015 che sono sì risultati sopra le attese. D'altra parte l'azienda ha dato indicazioni che poco sono piaciute al mercato sui margini relativi a quest'anno, al 2016. Migliore e peggiore in assoluto? Beh, migliore l'abbiamo detti, praticamente c'è anche Media Contact più 10,40, Credito Valtellinese più 6,95% tra i titoli bancari che non ho citato, mentre Novare meno 26, Enertronica meno 9 e IKF meno 6,20% sono i peggiori titoli di oggi a Piazza Affari. Grazie e buon fine settimana a Eleonora Micheli e ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, traffico e poi l'incontro Merkel-Renzi. Focus Economia. Della storia dell'Europa, personalmente ne avverto tutta la responsabilità, è un momento di grande importanza, credo che l'Italia sia unita alla Germania dal desiderio di dire che noi vogliamo più Europa, un'Europa più forte, più efficiente, più capace di dare risposte a tutti i problemi, da quello dell'immigrazione a quello dell'economia. Non su tutto naturalmente siamo d'accordo, in particolar modo per quello che riguarda alcune opinioni, anche che derivano dalla diversa appartenenza a diverse famiglie politiche, ma crediamo insieme che combattere la disoccupazione oggi in Europa significhi combattere il populismo. Il nostro avversario è lo stesso, è il populismo, è chi cerca di mettere in discussione e minare l'idea stessa di Europa. Ci sono pezzi di economia del nord-est che sono legati a doppio filo con l'economia tedesca e il fatto che in Italia finalmente ci sia un inizio di ripresa è un fatto positivo. Pensate che nei primi 11 mesi del 2015 l'import di prodotti tedeschi in Italia è aumentato di oltre il 7%. Che vuol dire? Non è un buon dato per il PIL, purtroppo, perché l'import naturalmente va a abbassare il PIL, ma è il segno che finalmente la ripresa in Italia è toccabile con mano anche dalle aziende tedesche che sono a noi legate da un rapporto di grande amicizia e stima. Allora, questi alcuni dei passaggi della conferenza stampa del Presidente del Consiglio dopo l'incontro con Angela Merkel. Abbiamo fatto ascoltare in apertura del programma un altro passaggio importante. Per la prima volta siamo qui con risultati non compromesse. Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore al seguito del Presidente del Consiglio, un attimo che non lo stiamo recuperando, però su questo alcuni mi chiedevano un commento sul fatto che il Presidente del Consiglio chiami la Merkel sempre Angela, uno fa quello che vuole. Personalmente ritengo che insomma la forma sia importante, delle volte abbiamo letto anche sui giornali, è stato criticato Renzi per l'atteggiamento così un po' informale, alcuni dicono guascone, che ha nei consigli europei. Io direi, soprattutto visto come è citata la Germania, Angela, no, Merkel, forse sì, ma non mi sembra questo il tema. Invece segnalo che il New York Times oggi, prima pagina, ha un titolo che recita così: Renzi si invita al tavolo dei grandi. Sostiene il New York Times che il premier italiano alimenti le tensioni mentre cerca un posto tra gli europei che contano, perché l'Italia è importante ma non sempre influente in Europa, anche a causa del malfunzionamento decennale delle sue politiche, Francia e Germania tradizionalmente scrivono l'agenda europea, mentre l'Italia è spesso un junior partner, un socio di minore importanza, talvolta comico e marginale. Però io voglio, da Gerardo Pelosi, eccoci Gerardo, buonasera. Buonasera a voi. Un giudizio franco, anche se sei in Germania, che cioè... Come è andata? Perché è ovvio che se tu senti Angela Merkel e no, Matteo... non è mica uno stato di polizia ancora la no. Germania, possiamo parlare. No, dico no, la battuta era col franco, non è che vabbè. Voglio un giudizio Marco su come è andato l'incontro tra Angela Merkel e Matteo Renzi, perché è ovvio che la dichiarazione devono essere distensive, anche se Renzi ha detto non sempre siamo d'accordo su tutti. L'Italia ha detto che poi andrà a quel punto via libera al finanziamento da 3 miliardi da Turchia, ma vuole capire esattamente certo. Come il meccanismo, come è andata? Ma dico, nessuno poteva naturalmente pensare che Renzi e la Merkel avrebbero, come dire, oggi fatto uno showdown dopo le dichiarazioni degli ultimi settimane. E era chiaro che si doveva arrivare a questo. Ma nell'ipotesi di uno scambio tra chi? Tra la Merkel, che ha bisogno di alleati sulla vicenda delle politiche migratorie e sui profughi, sul controllo e la protezione delle frontiere esterne, sul rimpatrio dei migranti economici, e dall'altro l'Italia, che a marzo vedrà sotto esame la sua legge di stabilità e ancora non sa con certezza se può contare su tutte le clausole di flessibilità che chiede. Bene, alla fine secondo me ha ottenuto più la Merkel di Renzi, perché la Merkel ha ottenuto che sulla Turchia l'Italia dice non mette assolutamente in dubbio il contributo da 3 miliardi alla Turchia, attende solo di conoscere dalle istituzioni europee, come ha detto Renzi, alcune risposte ai quesiti che abbiamo inviato per le vie brevi su come intendere questi contributi. Cosa vuol dire? Che attualmente, e già in novembre era stato deciso, di questi 3 miliardi, 2 miliardi dovrebbero essere a carico degli Stati membri, per l'Italia qualcosa di tipo 280 milioni, e 1 miliardo a carico della Commissione. Beh, non proprio il contrario, ma un equilibrio diverso, Renzi lo chiede. Speriamo, dice Renzi, che il chiarimento arrivi prima dell'incontro di Londra sulla Siria, dove Renzi aveva già detto che non sarebbe andato, mentre per due volte nella conferenza stampa la Merkel ha detto ci rincontreremo lì, quindi forzando un po' anche la mano su questo. Sulla flessibilità la Merkel ha detto non spetta a me, spetta alla Commissione. Su questo, posso dire una cosa? Io non ero lì, chiaramente... Però, e prendo per vero, ci mancherebbe il tuo giudizio, che forse ha ottenuto più la Merkel. Però, come dati di fatto, vedo che la Merkel ha ottenuto il fatto che l'Italia a questo punto darà via libera ai 3 miliardi alla Turchia, che servono alla Germania, perché questi flussi migratori dalla Siria vanno poi in Austria e in Germania. Quando li chiedevamo noi, piccolo inciso, i soldi per la parte della Libia, del Mediterraneo, Triton e Mare Nostrum, tutti nicchiavano. Comunque... La Merkel ha ottenuto questo, mentre sulla flessibilità, e quindi ti do ragione, quando sento Angela Merkel dire sulla flessibilità decide la Commissione europea, non mi mischio in queste cose, ma voglio dire adesso per favore non pigliamoci in giro, perché Schäuble e Weidmann e la Germania non si sono mai mischiate in questi anni il tema di che tipo di Europa, quanto fosse importante il rigore, direi ancora di più Martin Selmayr, il vero uomo forte della Commissione, il capo di gabinetto di Juncker, ma dicono che Juncker non riesca neanche a ricevere le persone se non c'è il capo di gabinetto Selmayr, che è quello che ha fatto il giochetto, da quello che ci è venuto con le fonti dicendo ai giornalisti, fonti europee ritengono che l'Italia non abbia interlocutore, la Germania non c'entra nulla. Va bene, diciamo che la Germania non c'entra nulla e che non si mischia mai, per favore, però dai, queste balle così, diciamo, dei popoli del sud, Angela Merkel. Quindi secondo te ha ottenuto di più la Merkel? sì, ha insistito molto, l'Italia è alleato fortissimo sulla crisi per la politica dei profughi, Renzi pure, poi alla fine ha dovuto dire più sono più le cose che ci dividono di quelle che ci sono più le cose che ci diciamo che ci uniscono di quelle che ci dividono. Se perdiamo Schengen perdiamo l'Europa, insomma, diciamo tutti e due sono due. Vabbè, senti, voglio chiudere in allegria, perché oggi è molto difficile, nonostante non abbia avuto la classifica. Toglimi una curiosità e toglierla soprattutto agli ascoltatori. Matteo, il nostro presidente del Consiglio chiama la Merkel Angela. Domanda, ma anche Angela chiama Renzi Matteo? Chiedo, però non lo so. Ma nella conferenza stampa non mi pare di aver ricordato, ma sicuramente in privato assolutamente sì. Beh, ma che ne sai nel privato, scusami Pelosi? Cioè... No, nel privato, in quello che ci raccontano degli incontri, incontri ovviamente non a quattro occhi, ma insomma dove ci sono dei collaboratori. Ma sicuramente lei lo aveva salutato come il mio grande matador dopo le elezioni europee. No, dai, ti prego, europee. Sta per iniziare la zanzara. Dai, ti lascio, perché che la Merkel dica di Renzi che è il suo grande matador non si può sentire. Buon fine settimana anche a Gerardo Pelosi. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Lasciamo Angela Merkel con il suo matador e invece diamo appuntamento a tutti lunedì dalle 17 in poi. Un augurio di buon fine settimana soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Radio 24. La passione si sente.